faccia così. Com'è? Non rompermi il cazzo, io la cassa non la passo. Casca il processo, il prossimo passo è il decesso. Voglio le troie, no, voglio il successo. No, voglio scriverle, vai a casa presto. Cusce, drastal, pusher, sbarioni nel letto se spengo la luce. Dimmi chi mi ferma, se c'è il blocco ferma. Prega, non ci veda, stucca tutta l'erba. Valgo più di tutti questi messi insieme. Non vi vedo messi bene. Soul, accendo questo in tasca, ho l'asso e quadri come quelli di Picasso. Mega join quelli che ti passo. Stestate non cambiare, stessa ganja, stesse cale. Resto sulle stelle, Dio mi sente bestemmiare. Mi vesto come mi pare, esco e mi faccio del male. Bevo tutto, fumo tutto, quando è tutto da dimenticare. Questa è la mia vita, tu non la imitare. Dopo un quarto d'ora, già ti senti male. Enfasi zero, cercasi un cuore che batte. Restare lucido per me è poco importante. Sul beat spitto, merda, tu applaudi. Swaggo anche se non esco da l'Audi. Ste rime di merda non le scordi. No, ormai lo sai, prendo troppi flow. Per il salto nel vuoto non mi cordi. No, muoio giovane, ovvi. Oh, oh, come si fa il rap? Zitto e metti play, ok. Ok, in giro mi chiamano Sergio, a.k.a. quello che arriva e ti fotte il posto, a.k.a. NSP, a.k.a. Raw Sound, baby. È iniziata la malattia, il virus. Siamo in giro, ho un hero label e mi succhiate ufficialmente il cazzo. Bella bra, che dici? Sto passando, che cazzo stai? La Pescara. Ma sì, Villa Lobo, Villa Lobo! Cazzo, tu prendo un treno? Sì, via il treno, perché mo lo stiamo a piare pure noi. Stiamo andando a fare l'after a Roma in studio da Millo, becchiamo se da Manusso. Madonna, ma poi ci sta pure Millo là? Sì. Ciao, Rico. Sta tutto fatto, sta smascellato davanti a Villa Lobos, non l'ho mai visto così. Sto vivo,